Sono già quasi 10 giorni, una decina di giorni che siamo qui a Baghdad, in Iraq, per portare i nostri soliti aiuti, soliti tra virgolette, le nostre missioni umanitarie, ma anche politiche di impegno civile. Devo dire, come già molti sanno, noi abitiamo qui in una casa normale, civile, tra le persone, nella zona di Dora Mechanic, e sono già 2 o 3 notti. Questo è un fatto un po' particolare, perché 2 notti fa c'è stato il secondo attentato, proprio qui a 2 passi, 70-80 metri da noi, passa, se vogliamo chiamarla, l'anulare di Baghdad, la strada che gira per tutta Baghdad, e ci sono stati in 2 notti successive 2 fortissimi attentati a una così, a carovana americana di tank, di carri armati, eccetera. E praticamente, un po' per punizione, sembra quasi una punizione, già quella poca luce che c'era, di luce elettrica voglio dire, è stata tolta quasi totalmente, per cui sono oltre 50 ore che siamo senza luce elettrica, e voi dovete immaginare che l'altro ieri eravamo a 55 gradi, non avere corrente elettrica significa non poter far funzionare nemmeno un ventilatore, non dico un refrigeratore d'aria, ma nemmeno un ventilatore, e potete immaginare la pena, la drammaticità, se questa viene rapportata alla situazione degli anziani, dei bambini o dei malati, è una situazione drammatica. Fatto sta che siamo ancora senza luce elettrica, come in questo momento d'altronde. Ho voluto raccontare questo fatto precedente, questi attentati che ci sono di continuo, queste esplosioni continue, almeno in questa zona dove io abito, c'è molta preoccupazione per ladri, delinquenti, criminali e cose varie. Mentre invece oggi abbiamo preso degli impegni con la mezzaluna e molto probabilmente mercoledì saremo a Fallujah. Alcuni giornalisti volevano venire con noi, ma è stato negato il permesso per loro di venire. Andremo ovviamente, come sempre, con la mezzaluna, che ci dà una mano, nel senso che ci dà i mezzi, ci dà un autista, ci dà il personale, e noi andremo a portare gli aiuti che abbiamo portato dall'Italia. Gli aiuti, come sempre, sono soprattutto in questo momento umanitari, intendo dire per umanitari, intendo dire oltre 20.000 siringhe in questa occasione portiamo, moltissimi antibiotici, oltre 10 apparecchi per l'aerosol, molto importanti, che poi abbiamo scoperto che c'è molta sofferenza di asma, di allergie, quindi ritengo che per un ospedale piccolo come quello di Fallujah sicuramente 10 apparecchi di questo tipo saranno molto utili. Portiamo anche 30 apparecchi per il controllo del diabete e oltre 10.000 strisce. Ovviamente per l'uso e il funzionamento delle stesse macchinette, e come solito e come sempre porto sempre con me i peluche per i bambini che sono lì ricoverati, è molto materiale, quasi 700 kg, io sono stato un mese fa, si può dire, a Fallujah portando più o meno gli stessi aiuti. Abbiamo incontrato il direttore dell'ospedale centrale di Fallujah, che praticamente ve lo voglio anche descrivere, si percorre, è entrato nel checkpoint controllato dai cittadini di Fallujah in un sottopasso dell'autostrada, si continua diritti, c'è un lungo corso che attraversa Fallujah fino ad incontrare un ponte di ferro a senso unico, un ponte di ferro che attraversa l'Eufrate. E appena passati il ponte c'è questo ospedale. Noi già ci siamo stati un mese fa e la situazione penso che sia uguale e identica di un mese fa. Fallujah praticamente è circondata, isolata, e voi sapete che la stanno bombardando quotidianamente dicendo semplicemente che in ogni casa che bombardano lì ci sarebbe il capo della guerriglia. In realtà stanno bombardando case civili, uccidendo civili, bambini, donne, questo è quello che sta accadendo. In realtà si tratta di assassini o di crimini di guerra, non so altro come commentare tutto questo. Ripeto, come piccola organizzazione cerchiamo di fare quello che possiamo, ma fondamentalmente intendiamo sempre portare di persona gli aiuti. E secondo luogo, perché andiamo a Fallujah? La risposta è molto semplice: andiamo a Fallujah perché vogliamo dare un messaggio non solo ai cittadini, alla gente di Fallujah, all'Iraq, ma anche agli italiani, ai nostri amici, ai compagni italiani, agli amici italiani, ai cittadini italiani. che siamo assolutamente contrari che passi l'idea, ecco perché andiamo, che passi l'idea che il volontariato, l'unico volontariato in Iraq sia quello con i fucili e i carri armati.